dire. Volevo farla finire. E invece non l'ho fatta. Dishes 9, Toxin. Adesso mandiamo un pezzettino per tutti gli amici. Ex disciplinata. Giustamente, un po' di cultura va fatta. Siamo qua apposta. E niente, mandiamo un pezzettino per il gomito alto e il gomito basso. Non lasciarla mai piena, non lasciarla mai vuota. Dai, qualcuno che ne sa. Sgomitiamo. Willy il Peyote. C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi. Fin da bambino te le bevi. Bevi, bevi, bevi, sì, ma responsabilmente. Non avere paura, non fa niente. Tutta quella gente che beve sorridente, evidente. Gente che sta bene, a proprio agio sempre. E gli ubriachi sembrano tutti felici. Bevi e siamo tutti un po' più amici. Bevi perché dici che t'aiuta e ti cura le ferite. Che dimentichi una lite, se c'hai l'ansia rende mite. E poi ti aiuta ad approcciarti con le fighe. O per far sembrare figa l'unica che te la dà. Che puoi trombarsi un cesso, in fondo è già un successo. E se ti viene da sboccare almeno c'ha un'utilità. Ma non riesco a concepire di uscire senza bere. Perché è come essere Superman senza alcun potere. Io lo faccio per fare un piacere agli altri. Così sembrate un po' più interessanti. Dovreste ringraziarmi. Ho avuto dei problemi. Come un balsamo del cuore, bevi di un liquore, bevi litri e litri e poi ti sentirai migliore. La nostra relazione decennale come va qua sembra amore. Tutti si chiedono come si fa, quello che viene e quello che va. L'alcol che prende è l'alcol che dà uno sguardo diverso sulla realtà. Se ci provi ci sta perché beve anche lei ormai d'ore fa. Nella tua facoltà o sul lavoro, anche per loro è normalità. Pubblicità. Bevi, bevi, bevi, sì ma responsabilmente. Non sentirti in colpa non fa niente. Poi naturalmente non guidare se hai bevuto e risaputo. Se facciamo un incidente muore solo il conducente. Bevi responsabilmente, l'importante è che tu beva. Ora non ricordo, c'era un detto che diceva che qualunque sia il problema tu dimentica stasera. E se domani un altro giorno ci sarà un altro problema. Ho avuto dei problemi. Come un balsamo del cuore, beviti un liquore, bevi litri e litri e poi ti sentirai migliore. La nostra relazione decennale come va qua sembra amore. Ascolta ragazzo, non drogarti, la droga ti avvelena l'anima. Segui il nostro rimedio, inquartati e quella ragazza ti apparirà sotto una luce diversa, sta puttana. C'era una vodka, forse erano due. C'era una mucca, un asinello e un bue. La mucca è sempre causa di problemi. E tu fin da bambino te le bevi. Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato. Ma ora va tutto bene, siamo tornati insieme. Ho avuto dei problemi con l'alcol in passato. Siamo tornati insieme, siamo tornati insieme, siamo tornati insieme, siamo tornati insieme.

Vieni qua tu. Tu c'hai la faccia droghetto. Io. Che c'hai ascicio di cocaina e LSD HB, che droga c'hai? Pepe, cannella e non siamo schiavi. Tua sorella fa la puttana macerata. Entra, che non va lo spirito, scammino. Nino, Nino, Nino, Nino, Nino. Arrivano alla disco. Sesse. Sacco che non lo sentivo questo, eh? Questo pezzo. Si farà perché un figlio al servizio della libertà. E tu che cosa fai? Fermati un po', le mani su. In tasca che cos'hai? Coltello e poi siringhe sporche. E negro dove vai? Se cerchi guai, guarda qui. Storte, pervertiti, fortoni cani, froci e banditi. Il sesso No, perché la trasmissione è in italiano, quindi sai mai, non si capisce il senso, mettiamo un po' di rap serio, ringraziamo Radius e passiamo a Savona, va? Savona, Liguria, GSA Commando, forse loro sono più chiari di me. Più diretti loro, più diretti. Più bad. No, bad non si può dire. Cattivi. Resta con noi, resta con i ragazzi in strada. La mia banda ubriaca spanda con la panda in carreggiata. Supporta gli ultras contro la polizia schierata. Insulta, insulta ad ogni camionetta blindata incendiata. Alza gli occhi, questo cielo grida contro il grigio piombo. E se mi spinge giù, fu, dammi un 5 mentre vado a fondo. Non rispondo più, non c'è più droga che calma, braccio che scalda. Scaccio questi spetti e faccio l'alba. Ciò che salda è un progetto per un giorno perfetto. Un gene infetto, una foto di John Lydon sopra il letto. Disinfetto e tagli dentro al petto con la vodka. Torno a casa con le nocche rotte, stanotte il resto si fonda. Bocco l'anima nel cesto, in faccia al mio riflesso. Giro depresso e quando passo i cani m'abbaiano addosso. Vedrai morti e sentirai le grida alla pelle blu. La mia crew voodoo, zombie ritual, t'ammazza la vita. Saremo uno di meno, almeno so che non un gioco. Se qua restiamo in pochi a passare attraverso il fuoco. È già più che evidente la trama, so robe sporche. Il Vigos che ti fa, il medico vende la morte. Corde sulle teste che non si sono accorte che paghiamo rate per farci fottere forte. Se il prete perde la fede guardando il cielo, da una parte stanno i vivi imponendo il loro vangelo. C'ero, ci sono stato, ci sono, almeno spero davvero. Prendo con gli altri passando giù al cimitero nero. Come il futuro che ti opprime, tracciando le sue linee, alle corde dalle norme imposte dal regime. Sarà la fine, beh ben venga, venga a prenderci. E dalle fasce che ci insegnano ad arrenderci. E se contiamo sul campo addizionando laggiù, sarà la volta che saremo uno di più. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uno in meno tra noi. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uno in meno tra noi. Tu non mi guardare, non parlare, non farmi domande, non mi cercare dal tuo mondo, prendo le distanze. Tu ti riempi la bocca e io sto a digiuno. Figlio di puttana, figlio di nessuno, vattene a fanculo. Hip hop vero per davvero, quello che Sunday mi passa in stereo col flavor di Cannibal Fero. Green, antagonista come Mark Landers nel thriller Bounty Killer. Spara i Texas Ranger sul Defender, vi tengo in pugno e se stringo il pugno. Il cielo è nero di domenica, scorda Domenico Modugno. Per un pugno di mosche sto nel giro, e chi mi ascolta e mi conosce porta rispetto se mi vede in giro. Chi vuole scatto si trova la morte in faccia, le ossa di un sacco. Green, rime spacca faccia e che gli in faccia di cazzo stacco la spina. Macchio la mia fedina, scendo coi morti giù dalla collina. Perché noi non abbiamo un cazzo da darvi, noi abbiamo un suono di chi muore il dolore per contrastarvi, bastardi. Ma verrà il giorno del vostro declino, in lotta col destino anche se ormai è troppo tardi. Voi predicate la pace a chi ha in mano un cannone, vi scandalizzate quando un porco muore. Figlio del rumore e delle piazze strette, la pattuglia mette a repentaglio la vita di un innocente. Un taglio con le lamette per far sì che si sporchino di sangue le vostre facce perfette. Porto il massacro per la gente, non me ne fotte niente. Lo voglio in ginocchio e manette, non me la chiude la bocca al vostro potere. Non la tocca, perché è l'unica cosa che mi appartiene. E c'è un motivo se la penso così, ma a parte questo resta fuori da qui. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uno in meno tra noi. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uno in meno tra noi. Oh. Sì, è una puntata un po' così. E quindi andiamo a braccio, perché non ci siamo preparati niente, è andato tutto in vacca. Chiediamo scusa alla vacca, chiaramente. Siamo dei bocciati. Siamo dei pancaroni. Allora, il noto esponente di spicco dell'andrangheta milanese, che si fa chiamare sindaco Giuseppe Sala, tra le varie malefatte e criminalità che ha compiuto, qual è l'ultima? O la penultima? in piazza Baiamonti, in Porta Nuova, dove c'erano i due dazi storici di Milano. Praticamente ha finito di recidere le ultime piante, un glicine ultracentenario, perché il signorino sostiene che devono costruire il museo della resistenza. Degli stessi giorni è la notizia che la piscina di Argelati, pubblica e del comune di Milano, è stata messa in vendita. Ora, la piscina di Argelati del comune di Milano vuota, ma perché non ci fai il museo della resistenza lì? Devi per forza ammazzare l'ultima pianta che c'è a Milano? Non si capisce molto bene questa cosa. La pianta resistente. La pianta resistente non so se ha resistito alle motoseghe, porco di di puntini, puntini, puntini. Non lo so, dopo di essere a comando vogliamo sentire Pittura Fresca che parla di questa gente. C'è un pezzo che sembra tagliato su misura per questi personaggi qua, si cazzo di criminali a piede libero, no? The Boss. Qui skate business, ho fatto man bassa. Grazie onorevole, risi e pesci triplicai. I nostri sei coperti dentro vai, mangia fai. Grazie onorevole, se anche massa. Qui skate business, ho fatto man bassa. Grazie onorevole, risi e pesci triplicai. I nostri sei coperti dentro va, i mangia fai. Mango, papaya, kiwi. Posso sento case pazzoni, aereo personal, so eredi tra mazzoni. Dentro a più bella villa, ferma è nostra festina. Gli schiavi al coisai, ai schiavisti a cocaina. Africa, America, Asia e Australia, gente massacrata grazie anche all'Italia. E a storia tipo il falla, passa il panabusia, Venezia sei qui in Rio e a meglio fumeria. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevole e firmato al Gabone. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevole e firmato al Gabone. Mango, papaya, kiwi. Sento metri, sento case e palazzoni, aereo personale, so eredi tra mazzoni. Dentro a più bevi la fema è nostra festina, gli schiavi al coisai e schiavisti a cocaina. Africa, America, Asia e Australia, gente massacrata grazie anche all'Italia. E a storia tipo il falla, passa il panabusia, Venezia sei qui in Rio e a meglio fumeria. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevole e firmato al Capone. Passiamo le mani all'organizzazione, grazie onorevole e firmato al Capone. Grazie, Pittura Fresca. Mango, papaya, kiwi. Thank you. Ci mancano un po' i minuti finali musicati. Oh, oh, oh, oh. Perché poi sfumano. Fumano, no? Non sfumano. Fumano. Fumano, questi fumano, questi fumano. Fumano bene. Venezia. E gay. No, no. C'è iniziare. Parte subito. Un po' sperimentale questa, eh. Vadi, vadi. Daniela Pes, Illa Sera. Ok. Testo in sardo. Va bene. Forse almeno a leggere un po' di musica, insomma. Grande rivelazione dell'anno scorso. Vai, ma il tuo testo? Sentiamolo. Sentiamolo. No, la canzone dico. Vai con Daniela Pes. Una sera chi fa Teresa? Chi fa notare sa? Senti il tappeto elettronico. Nasci via. Nasci via, via, via, via, via, via, via, via, via. Oh, oh, oh. Ti sentono, ti sentono. Mi sentono? Sì. Tu sei sicuro che mi sentono? Vabbè, allora sento, dico una cosa. Sento. Vado? Che dicono tutti? C'è la guerra, c'è la guerra, dappertutto c'è la guerra, missili, bombe, neutroni, sparoni, gente che muore squartata, no? Giusto per ricordarvi, al di là delle cazzate che ci vengono dette dal regime. Allora, per quel viscido di Emmanuel Macron, come dicono i francesi del loro presidente, che vuole espandere la guerra a tutta l'Europa, gli diciamo che abbiamo mandato la sua richiesta d'arruolamento al battaglione Azov. E quindi se lo prenderanno lui e tutta la sua famiglia per essere portato in prima linea a sparare dove a chi ci piace a lui, ok? Invece per tutti gli altri guerrafondisti ci dedichiamo questa canzoncina molto simpatica. Freak Anthony, Buona parte era italiano. Qualche diritto lo abbiamo. Dai, facciamolo davvero, un gesto gratuito ma fiero, giocheremo sul relax vacanziero, approfittiamo dello svacco salottiero, sarà una mitica impresa, per la sorpresa non avranno più difesa. Se perdiamo chiederemo perdono, usciremo col prossimo condono. Riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica. Imbottita, sarà più bella la vita, serve solo un poco di coraggio per rimediare un passaggio, o forse un biglietto omaggio per salire sul traghetto. Riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica. Aspettano, magari se ne fregano, attaccheremo dai porti, stabiliremo nuovi corsi, ma se tu non vuoi esporti, forse meglio che non parti. Riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica, riprendiamoci la Corsica. Se va male proveremo con la Svizzera. Questa parte piano, non è che abbiamo lasciato il vuoto, è un errore nostro. E noi facciamo le cose grezze, però è voluto, Cioè non è indisciplina questa. Forse sì, forse un po' di indisciplina. Pieno grunge italiano questo. Pronto? Ah, scusa, pronto, pronto. non ero collegato, ero scollegato, vedi te, scollegato, grunge. Che grunge, il grunge. Perché no? Senti che noise narco. E adesso di Marlene Kunz, con Sonica. Tutto da lei. Pillola rossa. L'inaspettata puntata 2. Niente che ascolterete in una radio di regime. Yeah.

razzismo il mio non è. Potrei amare anche i sovrani se ci fossero principesse con i calli sulle mani. Mia nonna partoriva in mezzo alla campagna, tua nonna riceveva medici in pompa magna. La fine del raccolto riuniva sul selciato un carico di olive in parte già svuotato. Per questo non amo il re e nemmeno la regina, per questo non amo te né la tua nobile cugina. Razzismo il mio non è, potrei amare anche i sovrani se ci fossero principesse con i galli sulle mani. Per questo non amo il re e nemmeno la regina, per questo non amo te né la tua nobile cugina. Razzismo il mio non è, potrei amare anche i sovrani se ci fossero principesse con i galli sulle mani. Manda Montanelli, che charme. Un'altra epoca. Vabbè, per quanto riguarda invece gli appuntamenti, che noi facciamo anche questa specie di bollettino eventi, no? In diretta. Perché quelli a corto raggio, perché sennò ci dimentichiamo noi, ci dimenticate voi, si dimenticano un po' tutti. Quelli del momento. E quindi, cioè, sputiamo a corta distanza noi, diciamo. Vai, sputi, cioè, quanto vuoi. Cioè, sono di 2-3 giorni al massimo, 4. Quindi di conseguenza, primo degli appuntamenti, che ne diremo altri dopo, venerdì 22 marzo, compleanno di Tolosa-Lautrec, etichetta discografica indipendente di Fuzz Orchestra, che prima o poi vi metteremo, tanta roba, ed altri di caso. Suonano Johnny Mox, che avevamo in scaletta, però i soliti cambi dell'ultimo minuto l'abbiamo sostituito, poi vi diremo con chi, e lo metteremo un'altra volta anche lui. E di Kwami, Caso, Doorless, Lantern, gruppi che suoneranno dove? In Conchetta, Cox 18, orario il solito, la solita serata verso la nottata. Stiamo parlando di Milano, per chi è di questo quadrante, chi ascolta da altri quadranti è Milano, giusto per saperlo. Noi quadriamo su Milano, è il quadrante del Naviglio, diciamo, per gli esterni che arrivano. La tagliamo questa. La tagliamo. Vai. Tutta. Salutiamo Wanda Montanelli, che ci ha lietato prima, e invece vi facciamo sentire qualcuno che nella nostra rubrica religiosa sa qualcosa più di noi. Vi lasciamo in Sanculamo. Altro charme loro. Cioè, Sanculamo, è uno charme diverso. Sanculamo, tanta roba. Dedicato a tutte le creature in ascolto, con amore. Faccia in finestra e giù cazzate a volontà, e quella folla di coglioni tutto quanto si berrà. Niente figa, niente seghe, o all'inferno te ne andrai. Niente messa per le suore, figli se sei gay. Ciccione pelato vestito di bianco, che cazzo stai a chi? Stronzone polacco, vattene via da qui. Ciccione pelato vestito di bianco, ma che testa inventa. Panzone bastardo, non te sta regola. Sei misogino e razzista, e allora io bestemmierò, perché tanto a sentirti in paradiso non andrò. Sei rimasto al medioevo, nessuno ti si incula più, solo i vecchi e gli ignoranti, per me il diavolo sei tu. Ciccione pelato vestito di bianco, che cazzo stai a dire? Stronzone polacco, vattene via da qui. Ciccione pelato vestito di bianco, ma che te sta a inventare? Panzone bastardo, non te sta a regolare. Tagliati, tronzone polacco, vattene via da qui. Datata ma sempre verde, sempre bianco. Pelato, vestito di bianco, ma che testa è verda. Panzone bastardo, non te sa regola. Ciccione pelato, vestito di bianco, che cazzo stai a dire? Stronzone polacco, vattene via da qui. Ciccione pelato, vestito di bianco, ma che te sta a inventare? Siamo a sfumare, siamo a sfumare San Culamo, che comunque ringraziamo ovviamente. Questa è l'Italia GL, proprio sì, è piena GL. Questa è poesia italiana. Italia GL. Italiana, perché cosa vuol dire un testo riferito alla musica? Spero che ci arriviate tutti nella nostra ignoranza. Beh, insomma, cioè, il polacco magari non tutti, polacco, diciamo, i più giovani magari non è, comunque è riferito a un po' di anni fa, insomma. Il polacco era datato, in polacco effetti. Era datato. Il polacco era datato. Pacco pacco papa polacco. Vabbè, aggiungiamo quest'altro evento. Visto un altro evento questo... sempre su Milano. Ci dispiace per chi non è di Milano, perché siamo un po' ignoranti, ma è la seconda trasmissione, quindi ignoriamo. Sì, e ignoriamo. Quindi ignoriamo il resto d'Italia per la nostra ignoranza beata, e diamo appuntamenti su Milano, prego. Oh, ma magari poi in, diciamo, in evenienza, in magari prossimamente, che ci saranno un po' di festival estivi, noi usciamo anche da Milano, su queste cose qua. Appuntamenti a tutti, facciamo. Cioè, io c'ho già attimo. Una cosa, guarda Miglio, mica, ma, cioè, la sto già occhiando questa cosa qua, Occhio alla penna. Ragguaglio sabato 23 e domenica 24, quindi è una doppiata di giorni, è nel pomeriggio. Interessante perché è il festival delle, insomma, del fumetto indipendente, sostanzialmente. Tanta roba. Dove? Cioè, e allo spazio Wow. È free entry, quindi non si paga. Ok. Ci sono, e ci sono, ragazzi, penso che ci siano anche corsi di fumetto. No, ho letto una brochure. 448 organizzano anche queste cose qua, insomma, dateci un'occhiata. E io ho segnato che è dalle 14 alle 19 questa cosa qua, quindi secondo me un salto. Hai mai provato l'orrore? Sì, qualche volta e ho stelle. Marco. Questa. Una canzone nata contro il panico, un esorcismo, un tocco di voodoo, un modo per allontanare il baratro, senza ansiolitici, senza Xanax, come cani in autostrada. Come in cerca della roba, avere la visione della morte. Fottere tutto e naufragare, mettere gli stivali e farli andare. Correre per non arrivare, amare il rogo, amare il suo bruciare. Il palco illuminato nel deserto, mettersi a cantare. Un inno rock and roll alla Hazelwood. Seconda strofa. Una canzone nata contro il panico, contro l'angoscia e la carestia. Preghiera contro l'inquietudine, contro l'orrore e il vuoto quotidiano. Come santi sebastiani, come bestie sugli altari, avere la visione della morte. Fottere tutto e naufragare, farli andare. Correre per non arrivare, amare il rogo, amare il suo bruciare. Sopra il palco illuminato, nel deserto mettersi a cantare. Yo, yo. Ho, ho. Vadiz. Fa un po'... Vai, po'... vai. Buh. Di come stanno le cose in questa città? E stanno le cose? No, volevo semplicemente, molto argutamente, ringraziare anche... Non la vogliamo ringraziare Milano Ristorazione? Ringraziamo Milano Ristorazione, cioè, che è uno che tra i vari criminali che girano a piede libero in questo comune. È uno dei nomi, insomma, di spicco. Ci sono questi un po' meno fusion in questo periodo, in scuole, asili. Diciamolo. Cioè, case di comunità, pensionati. Ci hanno, sì, un po' tutto in mano loro, come dire. Anzi, mamma... Insomma, fanno un menù un po' fusion, cioè nel senso che mischiano un po' cibo e altri elementi. Tipo? Tipo, cioè, tipo plastica. Oh, plastica e cibo. Vetro. Sì, ma mafia. Ma è futurismo, questo tu non capisci. Poi vabbè, ci sarebbero anche tipo le blatte, però vabbè. Poveri bimbi. quello è un po', come si può dire, un po' precorrere i tempi. No, no, no, ma spieghi i dati di fatto che i dati di fatto che il pane non c'è più a scuola. Occio. Ci sono i grissini. Occio lì. Da settimane ormai, quindi grissini confezionati, niente pane, la fornitura di Mr. X, perché mi sa che tra l'altro hanno tolto anche i vari fornitori che prima erano molto ben presenti nella lista, a dire questo lo prendiamo da quello e questo lo prendiamo da quest'altro. Mi sa che nell'ultimo periodo che ho fatto minima ricerca non si trova più. Si sono assentati, si magicamente. Si sono assentati, hanno cancellato la pagina, non so. Magari ho guardato male io, magari ho guardato male io. Vabbè, sembra fantascienza. Magari il signor Rossi l'avrebbe inserita nel testo. Certo che i bimbi la mangiano. I bimbi mangiano all'epoca. La fantascienza, sembra. Vabbè, lasciamo il signor Rossi a spiegare alcune cose sull'asilo, va. I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ci vuole un dolcino. Ci vuole uno spiro. Ci vuole un dolcino. Ci vuole uno spiro. Dice che è stata una disattenzione della maestra. E subito uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra. Oddio che cosa si può inventare. Oddio che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà si incazzerà. Si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino. Tranquilli qui non si può stare per niente. Ci vuole un agente. Ci vuole un agente. E loro andate con la polizia. La situazione ritornerà come prima, più di prima, davvero, yeah, davvero, più di prima ci sarà ordine e disciplina, e chi non vuole restare qui, va dalle colline, va dalle colline, e se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui, yeah, bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più un casino. Sono rimasti molto pochi. Dove i fuochi? Dove i fuochi? Dove i fuochi? I fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi, i fuochi. We'll be right back. male, ma tutto è così. Nato dal vuoto, vuoto, vuoto, vuoto, ma eccomi qui, crescito oltre l'abisso, sta a sedere la mia vita. Essere per piangere o ridere, vivo per scrivere, senza rimpianti per quello che ho fatto e che mai più sarà. Io sono senza pietà, io sono senza pietà, io sono senza pietà. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Lui è senza pietà. Per non essere appunto limitati a questo quadrante, prima di andare via, ma ricordiamo a tutti che domani c'è lo sciopero generale delle Poste Italiane, perché l'ultimo governo di regime ha deciso di vendere ai privati l'ultima o penultima fetta di questo organismo, le Poste Italiane, quella che usiamo tutti, capito? Ai privati, quelli che poi ci fanno quello che vogliono loro. Qualcuno più intelligente di me, che ha indetto lo sciopero, praticamente ha fatto un piccolo calcolo, e praticamente dalla vendita di quel terzo di Poste Italiane che scomparirebbe, verrebbe fuori la cifra esatta per comprare 20 Tornado con armamento nucleare. Non l'ho detto io che sono un pirla, c'è scritto da chi ha studiato: 20 Tornado con armamento nucleare. Ora, visto dove stiamo vivendo, come stiamo vivendo, nel tempo che stiamo vivendo, chi ha orecchie per intendere? Intendo. Fino a qui tutto bene. Restiamo a fino tema, a va? Tutto bene. Come ci vogliono. Non è la caduta, è l'atterraggio. E qua si atterra male, eh? Ma... vai Marra, di due parole. Rocce. Prego. Marrakesh. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Ed è un amico di dirla un amico, sì. Che c'ho tanti problemi ma non quello del ritmo, no. E forse crescendo mi ero fatto troppo serio ed ora sono più scemo di scemo e più scemo. Lo dice anche la diesel che zio quest'anno è il trend, sì. È stata dura mano, non ho fatto tutto da me, sì. La TV da una mano, la droga ha aiutato ed ora rido perfino a Colorado, sì. Caffè. Alessandra Amoroso ha fatto la canzone stupida, ma mica è stupida, piace alla mia amica stupida. Mollo il rap, faccio i musical, lascia il tuo commento idiota sulla mia bacheca pubblica. Sei commerciale. Yes be stupid, traduco per tutti, siate stupidi, bella Zalone Calabrugovic. Essere intelligenti di questi tempi, metà disagio più che farla nei cessi pubblici. Rispondi a questo test nella maniera corretta e sbarra la risposta esatta con una crocetta. Ti sembra stupido? A. Forse è stupido. B. Sì, è stupido. C. Troppo stupido. Atterraggio. Ed ora che sono stupido si sta da Dio, sì. Mi rendo conto che ero intelligente solo io. Era un po' stupido, così ti entra in testa subito e scorre liscio fuori però dentro ancora ruvido. Stupidi truffano altri stupidi, ci fanno i soldi, paghi lo yacht a Totti, mica lui ti paga i conti. Selezione all'ingresso nei posti per garantire che siano proprio tutti stronzi. La stupida sveglia ogni stupida mattina, la tua stupida collega ti racconta la sua sera prima. Fatti un autoscatto per la tua autostima, che va su Facebook, fai una face da bocchina. Tutti in paranoia che l'umanità scompare. Non per l'inquinamento, per il calendario Maya. Se fossi intelligente me ne andrei sull'Himalaya. Ma odio la montagna, quindi vamos alla playa. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui. La maggior parte di voi non ci prova nemmeno. Anche se ho scritto questo testo a prova di scemo. Gli intelligenti stanno antipatici di solito. Le belle ragazze giocano a fare le facili. Se non si capisce cosa dice è geniale. Ridere, vogliono lacrimare. Non posso spremere olio dalle pietre. Non posso spegnere il sole sotto quale canterete. Qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui, fino a qui tutto bene. Rispondi a questo test nella maniera corretta e sbarra la risposta esatta con una crocetta. Ti sembra stupido? Forse è stupido. B, sì, è stupido. C, troppo stupido. Troppo stupido. Ehi, Marrakesh. Rocce. Sì. Stupido. Boh, te lo dico, per me un nichilismo attivo consiste nell'accettazione che tutte le credenze sono false. Ed è tipico dell'oltreuomo e del superuomo, come ha sempre sostenuto Nietzsche. Cioè. Sì, vabbè, Fabio, però Nietzsche è commerciale. Sì, vabbè, se pensiamo a Schopenhauer. Dai, ragazzi, si gira! Eccoli. Vabbè, adesso vi diciamo l'ultimo appuntamento della settimana. Siamo ormai sul finire. Io. Appuntamento casalingo in questo caso, perché la serata è proprio qua al piano di sotto. Ra. A Zam, quindi quadrante, come siamo Milano, a quadranti? Milano, quadrante, Milano città, Milano sud, sud. Città. Sud. E, allora c'è la serata Antifa Trash Metal Punk. Metal Punk con Infected. No mushroom. Sì, trash. Vai, da vai, PC, da Piacenza. PC. Ci sono i Maximum Beer. Wow. Brianzoli. Beer. Roba, insomma, musicaccia. Scott. Skinhead, Sharp. Banale. E poi ci abbiamo questi 66CL, che è già simpatico nome. A cui abbiamo pensato di metterli in onda. Metterli in onda? Quale migliore sponsorizzazione della serata? Tagliana. Che mandarli direttamente in radio. Tagliana modernissima, sì, certo. Ora. Proposta cambiare nome PDL. È sbagliato, fratello. Poi, ma certo che è sbagliato, però. Mettiamo pure loro. Stava di bagno, razze due. Sto battendo cocaina, sembra un disco degli U2. Sono come Vasco, la coca costa troppo. Si ripeteva Malcolm, tempo due giorni smetto. Scegli la droga, ho una vita da schiavo. Tanto lo siamo tutti, tanto lo Stato è ladro. Tanto più tocco il fondo, tanto più me la godo. Sono un bimbo emarginato senza punti di ritrovo. Ciò mi chiamo Malcolm, come quello della serie. Sto prendendo delle droghe, delle droghe molto serie. TSO, proprio il 15 dicembre. Ora mi sento bene, ora non sento niente. Io mi chiamo Michael, sono un tossico modello, rieducato dallo Stato, che mi sale sul mio ballo. Io mi chiamo Malcolm, Mark Renton è il mio mito, perché mi rispecchia molto, perché anch'io ne sono uscito. Il colloquio con la strizza, ogni 15 del mese ce la sto mettendo tutta, perché adesso è andata in ferie. Ciò mi chiamo Malcolm, fumo 30 sigarette, ho ripreso a lavorare, prendo paga il 17. Non compro più la droga, ora pago le bollette. Soffro di depressione, colleziono VHS. Prendo quelle paste, mi fanno dormire meglio. Quando le messo all'alcol tutto mi sembra più bello. Prendo quelle paste, mi fanno dormire meglio. Quando le messo all'alcol sembra più bello. Ciao, mi chiamo Marco, sono un tossico modello. Mi sono sparato in bagno, mi ha trovato mio fratello. Ciao, mi chiamo Marco, non è stato così bello. Mi sono sparato in bagno, mi ha trovato mio fratello. Mi ha trovato mio fratello. bella lì, durata poco, a scapito degli imprevisti. Sembra. Il neopunk, trap, post-punk, non ho capito tanto bene, però... Il punk ci sta sempre. Bravi. Carini comunque, non mi dispiacciono. C'è anche il video, tra l'altro, simpatico. Quanta pubblicità. Ringraziamo i Samurai A Club che ci hanno permesso di stare qua a diffondere. Assolutamente, che ci hanno spiegato un po' come funziona tutto questo macchinario. Grazie a loro che siamo qua e anche non solo. A Zam, a noi due. Mattia Bazzaro. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao. 20:30 puntuali. Ci saremo anche noi. Prima e dopo.